i due volumi, anche solo sotto il profilo strettamente filosofico, sono molto ricchi e presentano un contenuto assai vario. Non è possibile renderne conto adeguatamente nel contesto di una semplice presentazione. Preferisco seguire un percorso particolare, personale, isolando alcuni temi filosoficamente significativi e discutendo il contributo dato ad essi dai diversi autori. Al centro dell'attenzione è il tema del silenzio. In via preliminare si deve constatare che il termine silenzio ha significati e usi differenti. Il Caracciolo afferma nel suo contributo che silenzio si dice in molti sensi. Baldini parla di tre modalità del silenzio in riferimento soprattutto al contesto del misticismo. Lauretano parla di un silenzio pieno e di un silenzio vuoto. Si potrebbe, in un certo senso, generalizzare ciò che Quinzio dice in modo pregnante a proposito dell'ebraismo, che il silenzio in esso si connota soprattutto in senso negativo, ancorché si tratti di una negatività dialettica che rinvia al positivo. Il silenzio si definisce anzitutto in rapporto al linguaggio e alle sue possibilità e acquista una connotazione filosofica diversa a seconda del modo in cui sono concepiti i limiti del linguaggio e in rapporto a questi i limiti della realtà e dell'esperienza. Si potrebbe applicare al silenzio ciò che Schopenhauer dice del nulla alla fine del mondo come volontà rappresentazione, che può essere inteso come assoluto o relativo. Assoluto, il silenzio, se il parlare diventa non solo impossibile, ma logicamente impossibile o insensato. Relativo, se il parlare appare impossibile in relazione a certi criteri che, con una inversione di punti di vista, possono essere essi stessi messi in discussione. Numerosi saggi raccolti in questi due volumi ci offrono appunto interessanti esempi di come comuni criteri di significanza linguistica, categorie ontologiche ed epistemologiche possano essere messi in discussione. E in questo caso il silenzio diventa la condizione di possibilità di una parola viva, più altamente, anche se talvolta paradossalmente, significativa. Il termine silenzio è usato poi in un'accezione chiaramente metaforica quando sta a indicare l'indifferenza dell'universo fisico alla dimensione umana e l'assenza in esso di segni capaci di esprimere la presenza di Dio, come nel saggio di Todisco nel commento a un celebre frammento pascaliano, dove però questa assenza di segni rivelatori può diventare a sua volta un segno illuminante. Nell'espressione silenzio di Dio, che ricorre ad esempio nei saggi di Bestin e Savignano, il silenzio è detto poi non in riferimento al linguaggio umano, ma alla manifestazione di Dio. E in questo caso, se con quell'espressione non ci si riferisce semplicemente alla assenza di Dio o alla irrilevanza del divino, ma al tema biblico del Dio nascosto, allora il nascondimento può diventare esso stesso una forma di manifestazione. C'è infine, in molti dei saggi di taglio filosofico raccolti nei due volumi, un uso specialissimo del termine silenzio, per cui questo viene usato non in riferimento genericamente al linguaggio umano, ma al linguaggio filosofico, in quanto pretenda di esprimere la giustificazione assoluta della realtà, e quindi anche della realtà divina, e faccia con ciò dipendere la fede da costrutti umani, come si esprime Antiseri. Proprio su questo uso specialissimo vorrei anzitutto soffermarmi, per venire poi a parlare di altri argomenti di rilevanza filosofica, come il rapporto fra il silenzio e la domanda sul senso della vita, il problema dell'esperienza religiosa, il silenzio come categoria esistenziale e infine la tematica del silenzio in Wittgenstein, una tematica fra le più ricorrenti nei due volumi, anche a prescindere dall'interessante saggio specifico di Pititto interamente dedicato a questo pensatore. Il primo argomento che ho indicato è variamente espresso in questi volumi. Se ne parla nella introduzione dei curatori del secondo volume, allorché si mette in guardia dalla ibris intellettuale, dalla pretesa della ragione di fornire una giustificazione assoluta, e si rinvia al silenzio in nome di una consapevolezza dei limiti della ragione. L'argomento è tematizzato da Antiseri quando critica la pretesa illusoria della ragione e il tentativo di sostituire la fede con le risposte metafisiche alla richiesta umana di senso. È tematizzato anche da Rizzi a Casa quando parla di crisi della ragione e di un certo modello di argomentazione razionale ed è discusso infine criticamente da De Rossi. È inutile dire quanto sia opportuno tale ridimensionamento delle pretese filosofiche in rapporto all'esperienza religiosa, se esse si estendono alla creazione di assoluti terrestri, nel linguaggio di Antiseri, che occupino abusivamente lo spazio della fede, o se tendono alla creazione di quei miti razionalistici che si sostituiscono ai contenuti autentici della fede. Naturalmente, occorre fare una serie di distinzioni, che qui posso solo limitarmi ad accennare. Si corre il rischio di sopravvalutare paradossalmente la teologia filosofica se si presume che quelle conclusioni siano l'esito necessario delle sue argomentazioni, anziché, invece, di quelle sue forme che storicamente si sono sviluppate nella tradizione del deismo e del razionalismo filosofico-religioso. Sarebbe assurdo, ovviamente, pretendere che non vi possa, logicamente, essere certezza nella fede in Dio in assenza di una sua giustificazione razionale. Ma negare che gli argomenti della teologia filosofica siano la condizione necessaria e o sufficiente della credenza nella realtà divina non implica che quegli argomenti non possano essere legittimamente sviluppati. Bisognerebbe distinguere poi tra la critica alla teologia filosofica come impresa impossibile perché produce enunciati insensati dal punto di vista cognitivo, la critica alla teologia filosofica perché si articola in argomenti che non sono validi o, se validi, conducono a conclusioni altamente improbabili in quanto raggiunte sulla base di premesse dubbie, la critica, infine, che giudica quell'impresa teologicamente irrilevante o addirittura, per così dire, irriverente. È evidente che non c'è tempo qui per approfondire la questione. Ben pochi oggi accetterebbero una critica generale di insensatezza rivolta all'intera impresa. Tentativi di questo genere, per evitare conseguenze indesiderabili, hanno avuto bisogno di continue riformulazioni fino a mettere a nudo il carattere del tutto stipulativo dei criteri introdotti. Lo scetticismo metateologico ha preso piuttosto la via della presunzione dell'ateismo, è il titolo di un noto volume di Anthony Flew, dove presunzione è inteso nel senso direi giuridico come in presunzione di innocenza, senso che l'ateismo è la posizione normale che deve essere abbandonata solo quando deve essere accettata fino a quando non viene confutata. O quella via volta a mettere in evidenza su basi concettuali l'incoerenza di concetti o parti fondamentali del discorso religioso o teologico, cui corrispondono tentativi, come quelli ben noti di Swinburne, di mostrare invece la coerenza del teismo. Oppure di discutere in modo non sommario, ma analitico, i singoli argomenti teistici, e non mancano, nella recente filosofia della religione, difese intelligenti di alcuni di essi. Quanto all'accusa di irriverenza, essa è giustificata se la costruzione filosofica è eretta ad arbitra della fede. Ma non c'è nessun legame logico fra la convinzione razionale prodotta dall'argomentazione filosofica e la conversione religiosa e il commitment di fede, cioè l'impegno di fede. Si può forse estendere a tutti gli argomenti teistici ciò che Norman Malcolm, noto allievo di Wittgenstein, dice della sua versione, appunto wittgensteiniana, dell'argomento ontologico, e cioè che è possibile seguire le varie fasi dell'argomento, considerare valida la conclusione e tuttavia restare insensibili al mutamento religioso. La conversione religiosa non è l'effetto dell'argomento. Alvin Plantinga, che con Walterstorff è notoriamente fra i più decisi critici del cosiddetto evidenzialismo e fondazionalismo classico, pur considerando la credenza in Dio come properly basic, cioè adeguatamente basilare, fondamentale, e tuttavia perfettamente razionale, non ha disdegnato di produrre, oltre ad analogie fra il problema di Dio e quello delle altre menti, una delle versioni più interessanti e raffinate dello stesso argomento ontologico. Su questo tema, della critica teologica alla teologia filosofica sulla sua presunta irriverenza, hanno scritto, come noto, osservazioni importanti Basil Mitchell e Terence Penelum. È evidente che c'è una inaccettabile presunzione solo se c'è confusione tra il possesso della fede e l'assenso dato a quelle tesi che si cerca di provare, e se i motivi, in quanto distinti dalle ragioni, per cui si intraprende tale compito sono teologicamente condannabili. In un mio saggio recente ho tentato di applicare la metodologia usata da Wittgenstein nella famosa critica allo scetticismo sulle altre menti agli argomenti teistici, con particolare riferimento alla nozione di relazione criteriale come relazione non deduttiva, tuttavia non contingente. Certo, la fede in Dio come commitment religioso verso il Dio personale dell'esperienza religiosa è altra cosa dalla consapevolezza razionale che nasce da una certa visione filosofica della realtà divina o da una interpretazione teistica dell'esperienza. Ed è un particolare merito di Antiseri, Rizzacasa e dei curatori di questi due volumi ricordarcelo con forza. Naturalmente, però, nella misura in cui implica la credenza nella realtà divina, quella fede implica anche un quadro concettuale e una forma di vita in cui la realtà naturale deve, logicamente, apparire tutt'altra che in un'interpretazione priva del rapporto costitutivo con Dio. Siccome la posizione qui discussa è talvolta nel corso dei due volumi accostata a quella di Pascal, e a Pascal è dedicato l'intero saggio di Todisco, vorrei brevemente esprimere il mio parere su tale questione. Lo scetticismo fideistico, derivando la incertezza della conoscenza dai limiti della ragione, presuppone per Pascal l'adozione dello stesso schema concettuale razionalistico che lega la certezza alla dimostrazione razionale o alla autoevidenza logica, sicché la critica pascaliana, scindendo la possibilità di certezza da quella condizione, implica il superamento di quello schema concettuale che giustifica sia il razionalismo sia lo scetticismo. Come noto, non è chiara la posizione di Pascal circa le prove dell'esistenza di Dio. Non è chiaro se le prove siano per lui solo inutili e sterili, ma possibili o anche impossibili. Gli interpreti discordano fra di loro. Ad uno studio accurato dei frammenti pascaliani appare che la diffidenza di Pascal è storicamente condizionata dal timore del deismo, un termine, deism, che Pascal usa 4 volte con una precisa connotazione, più precisa a mio avviso che Mersenne stesso, dimostrando uno straordinario acume storico nella percezione del nuovo fenomeno legato alla rinascita dell'ideale stoico dell'autosufficienza umana. È chiaro invece l'atteggiamento pascaliano verso le prove della religione cristiana, quelle stesse che sulla base di una originale ermeneutica biblica, come messo bene in rilievo dai recenti studi del Wetzel e del Forth, Pascal intende proporre considerandole convincenti. Senza l'inclinazione del cuore data da Dio, la convinzione che producono è solo umana e inutile per la salvezza, nel senso ovvio che la fede, come il testo pascaliano, la fede è differente dalla prova, ma non di meno che l'apologetica può essere convincente e diventare perfino uno strumento dell'inclinazione divina. La convinzione razionale non è una condizione necessaria né sufficiente della fede. Può esserci la fede anche senza di essa, e la sua presenza non assicura la presenza della fede salvifica, ma ciò non impedisce di pensare che la credibilità del cristianesimo si possa provare in modo convincente. Se col Goldman si identifica in Pascal il croire al pari e il credere allo scommettere, allora ha ragione Bernardi notare che l'atteggiamento romantico attribuito a Pascal è assai vicino a quello che Pascal condannava negli stoici e nel deismo. Che a Dio si giunga necessariamente con la ragione o in virtù di un postulato, dice Bernard, la differenza non è essenziale, l'uomo è sempre al centro e la religione che ne consegue si determina nella forma del deismo. C'è la possibilità dell'ibris anche nella scelta umana della fede. Opportunamente Antiseri parla di scelta ad occhi aperti di un messaggio di salvezza che non è invenzione umana. Vengo ora al secondo punto, la domanda sul senso della vita, che come dice efficacemente il Caracciolo, si leva dal cosmo nel silenzio degli spazi del religioso. La domanda metafisica di cui parla Antiseri circa il senso del destino di ogni singolo, nonché sul perché c'è l'essere invece che il nulla. L'interrogazione radicale di Weischedel, ricordata da De Rossi. Il problema che, come ricorda Pititto, Wittgenstein identificava con il problema di Dio. Anche qui è chiaro che la domanda non ha bisogno della giustificazione filosofica per essere riconosciuta come legittima. Essa, direi, più di ogni altra, si colloca nell'orizzonte strutturale della nostra esperienza come un'esigenza ineludibile, e il suo sorgere e manifestarsi è indubbiamente favorito da circostanze ed esperienze, più volte ricordate in questi due volumi, esperienze di raccoglimento, di meditazione, di silenzio interiore. È un'invocazione o un'interrogazione che può essere posta e può trovare legittimamente una risposta del tutto indipendentemente da una giustificazione filosofica assoluta. Ciò non toglie che abbia implicazioni filosofiche e che l'analisi filosofica possa contribuire a chiarirne il senso, la portata, le presupposizioni. Nel suo saggio, Francesco Bellino riconosce il ruolo svolto dal pensiero filosofico riguardo alle domande di senso. Come può formularsi la domanda? Ad esempio, essa può riguardare quale sia il senso della vita, e si presuppone allora che un senso ci sia. Oppure si può chiedere se la vita abbia un senso, e si presuppone che possa, logicamente, averne uno. Oppure si può chiedere se possa mai avere un senso. Si mette in discussione che un senso possa esserci, un punto che talvolta si esprime escludendo la legittimità stessa del problema. Una prospettiva che, collocandosi sul terreno pratico, ha conseguenze pratiche, non meramente logiche, quelle di un approfondimento, non superamento, del nichilismo, della mancanza di senso. Nell'ambito della filosofia della religione si può discutere se il legame tra il problema del senso della vita e la dimensione religiosa sia di natura logica o contingente. È vero che non è possibile, non ha senso, porre quel problema fuori della dimensione religiosa, oppure la difficoltà di sottrarre il problema a quella struttura concettuale, appunto religiosa, è solo la conseguenza di un forte legame storico di cui il lessico stesso in cui è solitamente formulato e sviluppato è un documento significativo. La convinzione che la caduta di quello schema religioso implichi la perdita del senso, cui si accompagna la questione del nichilismo, nasce solo dalla percezione del dissolvimento di un rapporto storico o suppone una relazione necessaria tra il lessico del senso della vita e la dimensione religiosa. Un altro contributo che la filosofia della religione può dare è mostrare le rilevanti differenze di schemi concettuali implicite nella distinzione tra scoprire il senso e creare il senso. Se la morte di Dio è all'origine del nichilismo della mancanza di senso, allora hanno ragione quei pensatori umanisti e razionalisti che vedono teisti e nichilisti accomunati nella presupposizione che solo ove ci fosse la realtà divina a fondamento dell'esistenza la vita avrebbe un senso. D'altra parte i teisti avrebbero ragione di vedere nella posizione umanistica quella per cui non c'è un senso della vita, il senso è frutto della creazione umana, avrebbero ragione di vedere in questa posizione non un superamento del nichilismo, ma una sua variante storica. La conferma che l'interrogativo radicale sul senso dell'esistenza non solo non ha una risposta positiva, ma non può averla. Il problema del silenzio in rapporto all'esperienza religiosa e mistica è affrontato soprattutto da Baldini, oltre che da Zucal, quando parla del silenzio come condizione di possibilità dell'esperienza religiosa. Molti rilievi di Bestin riguardo a silenzio e poesia hanno inoltre una stretta attinenza con la questione della mistica. La poesia, scrive Bestin, coglie la natura profonda delle cose e la loro ricchezza. La poesia è novità in rapporto al modo quotidiano di vivere e di conoscere. Vede la realtà in modo nuovo e si esprime in un linguaggio nuovo e rinnovato. A pagina 95 del primo volume. ci sarebbe spazio per un confronto fra il linguaggio della poesia e il linguaggio dell'esperienza religiosa. Certamente sarebbe un modo troppo rozzo e sbrigativo quello di sostenere che l'esperienza estetica è autocertificante in un modo in cui l'esperienza religiosa non può esserlo. Il problema non consiste tanto nel carattere non referenziale della metafora poetica, perché, come mostra bene Beskin, tale referente oggettivo non può essere escluso, ma semmai consiste, ecco, nella natura diversa del referente, quando questo è Dio o il divino, inteso come qualità divino, attribuibile ad una realtà trascendente. Baldini parla della lotta del mistico col linguaggio, del ruolo del silenzio come via di accesso privilegiato alla trascendenza. È ragionevole presentare l'esperienza mistica come un fenomeno originario e il linguaggio in cui si esprime, per quanto paradossale, come attendibile, indipendentemente da qualsiasi tentativo di giustificazione filosofica del suo status epistemologico. Non è possibile ricordare qui tutte le obiezioni filosofiche mosse alle esperienze religiose e mistiche. Trascurando quelle più rozze, basate sul riduzionismo psicologistico, su cui Savignano ha scritto osservazioni pregevoli, ricordo qui solo l'obiezione fondata sulla ineffabilità, che impedirebbe di fare affermazioni esistenziali, non essendo possibile descrivere la natura di ciò di cui si pretende di affermare l'esistenza. Se non può concettualizzare Dio, come può il mistico attribuirgli delle caratteristiche? Come può parlare di Dio come illimitato, anzi solo come esistente? Perché anche se l'esistenza non è un predicato, riferirsi a Dio come esistente significa dire qualcosa di Lui. Come potrebbe il mistico riconoscere Dio come Dio, se non può, in base al suo stesso principio, descriverlo? Ma questo legame logico fra riconoscere e descrivere, come ha recentemente notato Swinburne, non si applica neppure alle comuni esperienze percettive. Non è giustificato neppure il disconoscimento del valore evidenziale, di evidenza dell'esperienza mistica, se quel disconoscimento si basa sul presupposto, di avviso ingiustificato, che potrebbe averlo solo su base, quel valore evidenziale potrebbe averlo solo su base inferenziale, solo come base di un argomento induttivo. E garanzie, a meno che non ci siano prove decisive derivate da altre fonti, che l'oggetto dell'esperienza mistica Dio non esiste. Ma prove di questo genere sono notoriamente problematiche. Per me, se devono essere adeguate, cioè non basate su un fraintendimento di Dio, devono trasformarsi in una forma o l'altra di confutazione ontologica. Naturalmente, un'analisi più accurata dovrebbe distinguere tra esperienza mistica, esperienza numinosa ed esperienza religiosa legata ai comuni atteggiamenti devozionali, nonché tra misticismo naturale e soprannaturale. Un'esperienza che sembra, nel senso epistemico non comparativo, essere di Dio, può essere o no mediata da qualcosa di sensoriale. Molti mistici affermano di sperimentare Dio tramite il nulla o l'oscurità. E di questa esperienza si parla in alcuni dei saggi compresi in questo volume, questi volumi. Se è mediata da qualcosa, questo può essere pubblico o privato. Se è privato, può essere o no descrivibile mediante il normale lessico sensoriale. Se è pubblico, può essere un fenomeno comune, ben conosciuto, oppure qualcosa di molto singolare e strano. In particolare, i mistici che trovano difficile, se non impossibile, descrivere col linguaggio le loro esperienze religiose, e tuttavia sentono che c'è qualcosa da descrivere se solo avessero le parole, presumibilmente hanno sensazioni analoghe a quelle di tipo normale, ma solo analoghe, e in questo senso non descrivibili col vocabolario normale. In generale, il fatto che non sia autocertificante non solo non priva l'esperienza propriamente mistica di forza cognitiva, ma l'assimila, logicamente, più alle comuni esperienze percettive che ad esperienze psichiche non noetiche, cioè di carattere non conoscitivo, sensazioni di dolore, il sentirsi depressi e così via. Ci sono criteri per l'autenticità dell'esperienza, quando è in discussione non solo lo status cognitivo di una particolare esperienza mistica, ma quello dell'esperienza mistica in generale, cioè dell'intera classe di quelle esperienze. D'altra parte, il dubbio, in un caso particolare, perfettamente legittimo, presuppone l'esistenza di criteri, ma è proprio questa, l'esistenza di questi criteri, che il filosofo scettico riguardo all'esperienza religiosa mette in discussione. Infine, è irragionevole ritenere che in base ai presupposti di quella esperienza le affermazioni su Dio siano da tradursi in asserzioni sull'esperienza religiosa, così come è irragionevole il fenomenismo nelle interpretazioni delle comuni esperienze percettive. Per tradurre le affermazioni sugli oggetti fisici in affermazioni sui dati sensoriali, anche se, come sostiene Wainwright, il fatto che il fenomenismo sia più attraente in quest'ultimo caso che in quello religioso potrebbe indicare una soggiacente differenza logica, ovviamente. Naturalmente le differenze radicali fra la natura degli oggetti nei due tipi di esperienza spiegano non solo la differenza dei criteri, ma anche il diverso uso del linguaggio, la lotta del mistico con esso, pur non distruggendo, ecco, il carattere noetico, quindi conoscitivo, dell'esperienza religiosa, luminosa o mistica. Un altro tema rilevante è quello del silenzio come categoria esistenziale. Il silenzio ha tale valenza nel senso più profondo tra quelli indicati dal caracciolo e inoltre nella prospettiva di Rizzacasa che ne fa la manifestazione autentica dell'esistenza e ancora nella caratterizzazione che ne dà Zucal come tipica prerogativa umana e in quella che ne dà Penzo come livello ontologico. Vorrei sottolineare l'ambiguità sotto questo aspetto del silenzio, del resto in vario modo rilevata dagli autori menzionati, portando l'esempio di un pensatore esistenziale come Michel Stetter, che bene si inserisce nel quadro storico delineato nel secondo volume. La problematica che concerne la parola potente del persuaso, mi riferisco qui evidentemente alla sua fondamentale opera, la persuasione e la retorica, la problematica è la stessa che concerne la persuasione, il paradosso di una vita perfetta e dotata di valore, il valore individuale, che non potrebbe tuttavia essere vita, essendo quel valore intrinsecamente incompatibile con l'esistere. È il paradosso di un linguaggio sospeso fra il silenzio e la tautologia. Cito una frase di Michel Stetter. Chi è tutt'uno col suo soggetto e parla perché questa è la sua vita, vedrà in ogni cosa tutto e a proposito di ogni cosa dirà sempre lo stesso. Egli ha sempre tagliati dietro a sé tutti i ponti e combatte sull'ultimo a vincere e a morire. E il morire è per chi scrive il silenzio. Vana è la pretesa che il valore individuale possa esprimersi attraverso le forme convenzionali del linguaggio, che non comunicano ma stordiscono. Abituarsi a una parola, gli dice, è come prendere un vizio. Non ci sono parole che ti possano dare la vita, perché la vita è proprio nel creare tutto da sé, nel non adattarsi a nessuna via. La lingua non c'è, ma devi crearla. Devi creare il mondo, devi creare ogni cosa per avere tua la tua vita. Il carattere catastrofico, come dice Michel Stetter, autodistruttivo di questa testimonianza assoluta corrisponde alla dimensione necessariamente tragica della persuasione, alla sua necessaria incompatibilità con le condizioni dell'esistenza. La conseguenza che si può ricavare dalle splendide pagine Michel Stetteriane è che senza un originale rapporto positivo del silenzio con l'esistenza, una positività che non sia cioè solo l'eventuale risultato di un processo carico di negazioni, dopo un'espressione di Michel Stetter, carico di negazioni, è impossibile che il silenzio diventi dimensione di salvezza senza questo rapporto originale con l'esistenza. È impossibile che il silenzio diventi dimensione di salvezza, quella apertura al tu divino, al tu divino di cui parla Zucal citando Guardini. E vengo alla conclusione. Quanto a Wittgenstein, infine, che è menzionato quasi in tutti i saggi, ed è l'oggetto specifico di uno di essi, avrei tante cose da dire, ma mi limito a un punto solo, molto problematico, eppure trattato di solito superficialmente. Il rapporto fra il silenzio, che nel Tractatus consegue su basi logiche, e quello che consegue su basi etiche. È lo stesso problema del rapporto fra la trascendentalità della logica e dell'etica. Di entrambe Wittgenstein dice che sono condizioni del mondo. Recentemente il Ferrac ha distinto due sensi del mistico nel Tractatus. Il primo, logico, epistemologico, l'altro, religioso. Il duplice senso si rifletterebbe anche sul tema del silenzio. Il primo senso, per Ferrach, è critico, obiettivo e universale, ma anche banale, perché riflette solo la positività dell'immediato del mondo. Il secondo senso non è critico né banale, ma religioso e implica un elemento soggettivo. A me sembra invece che il primo senso non sia banale, ma apra allo stupore per l'esistenza del mondo, mentre il secondo è meno soggettivo di quanto ritenga Ferrach, almeno nel senso che rimanda a strutture trascendentali, a condizioni di possibilità. Entrambe le nozioni del mistico sono connesse inoltre con ciò che Wittgenstein dice del solipsismo e con la nozione di soggetto, come soggetto di conoscenza e volontà, il limite del mondo. Penso inoltre che il fatto che sia l'etica sia la logica siano dette trascendentali ed entrambe siano definite condizioni del mondo suggerisca una analogia fra esse. L'indipendenza della verità logica dai fatti ha certo un senso diverso dalla indipendenza del valore assoluto o del senso della vita dai fatti, in quanto essa si può mostrare attraverso la notazione vero funzionale. Il fatto che la forma logica sia inesprimibile ha una valenza diversa dal fatto che il senso della vita è di per sé inesprimibile. Tuttavia, per Wittgenstein, non possiamo accostarci al mondo al di fuori di una struttura etica o logica. Così i tentativi di esprimere il valore assoluto nel Tractatus e nella conferenza sull'etica, non a caso, a mio avviso, prendono un aspetto quasi logico e perciò paradossale. Avrei altre cose da dire su questo argomento. In particolare sono d'accordo che c'è un forte senso etico e religioso sullo sfondo di tutto il pensiero di Wittgenstein, anche se occorrerebbe precisarne bene il senso e la misura. Ed è vero che è possibile un'applicazione della metodologia wittgensteiniana alla filosofia della religione che non deve coincidere necessariamente con quella esemplificata da studiosi come Phillips e Peter Winch. Devo fermarmi qui, ho inteso solo mostrare come i due volumi che oggi presentiamo siano capaci di stimolare riflessioni e indagini, oltre che di suggerire percorsi filosofici interessanti e significativi. Nella discussione che ne ho fatto ho dato rilievo a temi di carattere teorico e sistematico, ma vorrei sottolineare che i contributi di tipo storiografico, per lo più raccolti nel secondo volume, al quale pure diverse volte mi sono riferito, sono di alto livello e meritevoli della massima attenzione. Grazie. Ringrazio anche a nome vostro il professor Micheletti di questa esposizione così precisa e lucida. Ascoltandomi sono reso conto come il convegno, già allora, e il libro conseguentemente, ha avuto la sua origine propriamente in campo filosofico, sia da parte del dottor Zucal, sia da parte del professor Baldini, specialista della filosofia del linguaggio, no? Ed è partito, è stato articolato a partire primariamente, principalmente da questo sfondo. E ci siamo forse accorti quanto questa prospettiva filosofica veramente contribuisce a illustrare questo concetto che forse molti prendono ancora in maniera troppo sommaria. Da un lato la religiosità viene aiutata da questa riflessione filosofica, d'altro canto mi pare di capire che la filosofia stessa, a sua volta, una volta che si lascia sedurre da questo tipo di considerazioni, viene fortemente portata in profondità, viene condotta in alto mare. Però, io stesso, che non sono filosofo di mestiere, ho avuto la sensazione di quella che è la importanza e la rilevanza di un libro come questo proprio nell'orizzonte filosofico. Se questa prima parte era costituita primariamente e principalmente di riflessione che la lettura vorrà ulteriormente sviluppare e